Friuli nel mondo, 164esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte friulane nella Repubblica del Plata. Toda la vida del friulano se resume in una villota. Così dichiara la scrittrice argentina Svana Zvitan nel presentare il coro Agrupación di Buenos Aires, diretto dal nostro corregionale maestro Rodolfo Kubik, da lunghi anni emigrato in Argentina, ove grazie alla sua cultura e alla sua sensibilità ha raggiunto un alto prestigio ed una vastissima notorietà. Direttore del coro universitario a La Plata, del coro da camera della Scuola Superiore di Musica a Mendoza e insegnante dei direttori corali della Cattedra Superiore di Musica, il maestro Kubik, innamorato del suo Friuli e dei suoi canti, che ha largamente fatto eseguire ed ascoltare dai friulani e dagli argentini, fra le tante composizioni annovera stupende villotte e perfetti arrangiamenti di canti popolari friulani, eseguiti dal complesso di Buenos Aires, e che oggi, cari amici radioascoltatori, abbiamo il piacere di farvi ascoltare. Eccovi di Kubik la versione per contralto, tenore solo, e il coro virile della villotta O tu stele. Ascoltate ora L'Unic Rimiedi. Le parole e la musica sono di Rodolfo Kubik. Malato

Ed infine vi trasmettiamo Furlan Spalmont, che è un arrangiamento del maestro Kubik di canti popolari friulani. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.